Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Dopo qualche settimana di assenza, torno ai microfoni di Radio Wombat per la consueta, quasi consueta perché sono diventato un po' aperiodico, nel senso che spesso mi tocca di saltare questo appuntamento del lunedì, ma ora proverò a essere più preciso, più bravo. E anche quest'oggi vi riempio di notiziole relative al mondo dell'hacking e dell'informatica in generale. Se sentite lo scroscio di carta sotto è perché oggi addirittura ho un giornale cartaceo, una vera rarità. No, non è vero, è solo una vecchia non troppo, di qualche, forse di un mese fa, un mese e mezzo, due, non me lo ricordo più, un numero del Le Monde Diplomatique che esce come inserto del manifesto, mi sembra il mercoledì, non vorrei sbagliare. E comunque per caso mi è capitato sotto mano questo bel inserto, dove c'era un articolone di quasi due pagine, o due pagine anche qualcosina in più, dal titolo Capitalismo della sorveglianza. È un titolo che mi ha indotto alla curiosità, e allora me lo sono procurato e ci ho trovato delle cose interessanti, non illuminanti, ma comunque delle riflessioni abbastanza, diciamo, in linea con quello che provo con fatica e nelle mie scarse capacità dialettiche di illustrare all'interno di questa trasmissione. Allora mi sembrava bello darvene una spiegazione lettura, nel senso che l'articolo è lungo, però volevo provare a farne una specie di riassunto ragionato, visto che pone appunto una questione, secondo me, precisa rispetto a, diciamo, la dimensione di come il capitale abbia in qualche modo preso una parte di ciò che viene prodotto sul web e viene prodotto da noi essenzialmente, quindi una sorta di surplus di informazioni, qualcosa che in qualche modo si sposa bene con la teoria marxista del plusvalore, no? C'è questa cosa che noi diamo in più e di cui il capitale, in quanto cosa in più, ci fa del bel profitto. In particolare, l'articolo parte da una piccola storia mirata, in questo senso, di Google. In particolare, sì, a un certo punto dell'articolo c'è un trafiletto che secondo me è interessante, che vi volevo leggere paro paro, e vabbè, ve lo leggo e poi lo commento. All'epoca Google relegava la pubblicità in secondo piano. All'epoca si intende essenzialmente nei primordi di Google, quindi alla tardi anni 90 all'incirca. L'equipe di AdWords, che sarebbe, diciamo, l'equipe che si occupa degli ad, cioè degli adverts, insomma, della pubblicità che vi vedete su Google, e che è la grossa novità che Google ha introdotto in questi anni, rivoluzionando un pochino le tecniche pubblicitarie, passando appunto da una pubblicità massiva a una pubblicità molto, molto mirata. Ecco, nei tardi anni 90 l'equipe di AdWords, la regia pubblicitaria di Google, contava ben, attenzione, 7 persone, la maggior parte delle quali condivideva l'antipatia dei fondatori riguardo a questa specialità. Ma nell'aprile del 2000 succede qualcosa, cioè la famosa nuova economia entra brutalmente in recessione. E per la nuova economia si intende la new economy, cioè quell'economia che sostanzialmente puntava tantissimo sul web. Da questa recessione deriva una sorta di terremoto finanziario che scuote il giardino dell'Eden della Silicon Valley. La risposta di Google provoca a quel punto una mutazione cruciale, che trasforma AdWords, Google, Internet e la stessa natura del capitalismo dell'informazione in un progetto di sorveglianza enormemente redditizio. Allora, di quale tipo di sorveglianza si parla? Perché spesso si sente parlare di Internet come, diciamo, anche rete di sorveglianza globale, ma di quale tipo di sorveglianza stiamo parlando? Allora, tutto nasce, almeno così deriva l'autrice o l'autore dell'articolo, ve lo dico dopo perché non sono riuscito a capire se si tratta appunto di un uomo o di una donna. dice Google praticamente brevetta una cavolata, ma in qualche modo che farà la sua fortuna finanziaria degli anni questi che stiamo vivendo, cioè dal 2000 in avanti. Nel 2003 Google cosa fa? Registra questo brevetto intitolato generare informazioni sull'utente per la pubblicità mirata. Ecco, sembra una cavolata, su tre righe uno dice hai brevettato l'acqua calda, e però quest'acqua calda gli ha fruttato tanti bei soldoni. Cioè cosa fa sostanzialmente Google? Google si accorge che un profilo può essere creato o aggiornato o ampliato anche quando al sistema non viene data alcuna informazione esplicita. Cioè per profilo si intende sostanzialmente una serie di dati caratteristici di un certo utente. Quindi anche se quell'utente non ci fornisce esplicitamente delle indicazioni sui propri gusti, su i siti che visita, su cosa cerca in rete, partendo dalla posizione estremamente privilegiata che ha Google, che è un motore di ricerca enorme sostanzialmente, per molti Google è il motore di ricerca, cioè non esiste nient'altro, se tu vuoi cercare qualcosa la cerchi su Google, no? E diventa quasi sinonimo stesso di internet. E, ecco, allora Google si accorge che appunto dalla sua posizione estremamente privilegiata può ricavare informazioni dagli utenti anche se gli utenti esplicitamente non gliele danno. L'autore dell'articolo usa una metafora particolarmente fiabesca, bella, e parla di uno specchio segreto riflettente, e in particolare scrive: ma soprattutto lo specchio segreto riflettente simboleggia relazioni sociali di sorveglianza peculiari fondate su una formidabile asimmetria di sapere e potere. E da questo lui deriva il termine sorveglianza commerciale. E per questo poi il capitalismo della sorveglianza. Spesso infatti noi abbiamo, anche negli anni passati parlando di queste cose, io quando spiegavo o tentavo appunto di spiegare questi meccanismi di sorveglianza che nascono da appunto la profilazione molto precisa dell'utente nel suo muoversi in rete, e non parlavo di appunto di una sorveglianza che però è di un tipo legato alle aziende. Cioè, che non è lo stesso tipo di controllo e sorveglianza, tecnicamente sì, è lo stesso, però è la finalità che muta in qualche modo. E quindi diciamo, questo articolo, quando l'ho letto, ho detto, allora è una conferma di tante tesi che poi non è che sono tanto così complesse. È interessante l'inquadramento che ne fa appunto l'autore nella critica al capitale, anche inserendola appunto in una critica di matrice alla fine post-marxista, se si vuole, o marxiana se vogliamo vederlo più dal punto di vista filosofico, però tant'è. E di questa sorveglianza commerciale, in qualche modo, l'autore deriva alcune, riflettendoci, tira fuori alcune riflessioni abbastanza interessanti. In particolare sì, cito dall'articoletto, la vecchia reciprocità fra imprese e utenti viene meno, cancellata dal progetto che consiste nell'estrarre un plus valore dalle nostre azioni per fini concepiti da altri, cioè vendere pubblicità. A sostegno della propria tesi, cita appunto Larry Page, cioè un cofondatore dell'azienda, il quale dice: le nostre comunicazioni in generale sono interessanti perché captare non costa nulla, cioè immagazzinare non costa nulla, le macchine fotografiche non costano nulla, le persone produrranno un'enorme quantità di dati, tutto quello che avete sentito, visto, provato diventerà consultabile, la vostra intera vita diventerà consultabile. Da questa visione di Page, in qualche modo si deriva uno specchio fedele della storia del capitalismo, che consiste appunto nel captare cose esterne alla sfera commerciale per mutarle in merci. E intuito questa cosa, Google si rende però conto che in realtà c'è bisogno di tantissimi dati per effettuare una profilazione che vada poi a essere funzionale a una pubblicità mirata, cioè a farti vedere sul video quello che a te potrebbe interessare acquistare. da questa prima, diciamo, da questa consapevolezza deriva in qualche modo questa prima ondata di prodotti predittivi, che arrivò appunto grazie al surplus di dati estratti su grande scala dall'utilizzo di internet. In qualche modo questo surplus di dati deve essere però non solo abbondante, e da qui l'utilizzo, no, in questa prima fase di Google di ogni mezzo per accaparrare tutti questi dati, e da lì l'inizio dell'interesse di tutta la sfera diciamo commerciale del web, che è la gran parte del web sostanzialmente, per i big data, cioè per questo tipo di mole di dati, per il come trattarli, il che farsene, e nell'assunzione appunto che non deve essere solo tanta, perché se io prendo sempre le stesse cose non riesco a essere preciso, no? Per essere preciso ho in qualche modo bisogno di avere anche una quantità varia di dati che mi permetta di proliferare, cioè di sì, proliferare, di profilare i soggetti in una maniera estremamente variegata, perché da questa varietà deriva poi l'oculatezza, in cui c'è la precisione, ecco, la precisione del mio profilo, che è poi quello che Google si vende. Cioè, se in qualche modo la pubblicità mirata non produce poi l'acquisto da parte dell'utente, in qualche modo questo giochino si rompe. Io ho tantissimi dati, lavoro su questo surplus di dati, ma se poi non sono in grado di tramutarli in denaro che scorre da una parte all'altra, diventa tutto una grossa bolla. Allora, per mettersi al riparo dalla bolla, che cosa accade? Che nel tentativo di essere sempre più variegati e precisi, diciamo, si sviluppa questa tendenza a legare la raccolta di dati direttamente agli oggetti. Cioè, sono gli stessi oggetti che io magari compro indotto dalla pubblicità che verranno collegati a internet, e da questo deriverà una mia profilazione sempre più precisa, no? Nell'articolo si parla, si usa con questi esempi abbastanza buffi, cioè dalla bottiglia di vodka intelligente al termometro rettale connesso proliferano i prodotti destinati a interpretare, seguire, registrare e comunicare dati. E qui c'è un accenno appunto alla seconda fase, cioè la seconda fase che in qualche modo entra in questa tendenza del web, dell'internet, di insinuarsi nelle case delle persone direttamente, no? Le smart TV, tutte le robe intelligenti, la lavatrice attaccata a internet e tutte queste cose. Cioè tutto il mondo di quella che viene chiamata l'IoT, l'Internet of Things, che è appunto una tendenza che viene un sacco spinta, poi non si capisce bene quanto questa sia una bolla e quanto riuscirà a produrre, però pare sia un trend per ora almeno decisamente in ascesa. In particolare nell'articolo si parla appunto a un certo punto per arrivare appunto a avere una, cioè a cosa servono tutti questi dati così precisi, no? In qualche modo a minimizzare il rischio, se si vuole, il rischio di impresa per un'impresa che investe sul web. Cioè, io butto dei soldi a Google e sono sicuro che quell'investimento mi garantirà un rientro in termini finanziari. E tutta questa sorveglianza commerciale si capisce bene da alcuni esempi, dove la cosa è più evidente. In particolare qui si citano le assicurazioni e si generalizza questa tendenza delle assicurazioni, perché se io ti assicuro sostanzialmente e so precisamente quali sono i rischi di questa assicurazione, sono sicuro che per me sarà assicuratore un buon guadagno. Cioè, se io ti vendo una polizza e sono abbastanza sicuro che te pagherai, ma non mi chiederai mai soldi indietro, perché in qualche modo io in questa polizza è talmente precisa, o comunque ti induco attraverso, che ne so, io ti assicuro contro il furto l'auto, però voglio che sull'auto allora monti il GPS, perché così almeno se te la rubano la ritroviamo in fretta e io minimizzo il fatto di doverti dare i soldi per comprare un'auto nuova. Oppure ti assicuro la casa contro il furto, però allora voglio che metti gli allarmi magari connessi al web su una mia piattaforma dove io posso controllare che tu l'allarme ce l'hai davvero. E via così. Generalizzando questo concetto, si parla appunto di minimizzazione del rischio, cioè una sorta di eufemismo che per un assicuratore indica la necessità di garantire i profitti attraverso il monitoraggio e la sanzione per l'assicurato in tempi reali, un approccio chiamato assicurazione sul comportamento. E in qualche modo questo trend poi valica il mero campo delle assicurazioni e diventa la tendenza del web. Cioè io non solo devo in qualche modo profilare gli utenti nella speranza di capire quali sono i loro desideri, i loro bisogni, le loro voglie, eccetera, e cercare di venderli i prodotti. Ma a un certo punto, per far funzionare questa cosa, io devo fare il giro e creare in qualche modo il bisogno giusto, creare, cioè indurre questa cosa a funzionare. Cioè non è solo più la dinamica predittiva, ma è la dinamica predittiva che ha la necessità di realizzare la propria previsione. Cioè per far vedere che le mie previsioni sono giuste, io cercherò in qualche modo di influenzare il tuo comportamento perché le cose vadano veramente così, perché il giochino funzioni. Lui utilizza, o lei, non lo so, insomma l'autore, utilizza una cosa che lui ha particolarmente colpito, che è una roba di circa un anno fa, o forse addirittura due, cioè il giochino Pokémon Go. Da chi nasce questa cosa del Pokémon Go? Io non lo sapevo, ad esempio, cioè io l'avevo presa per l'ennesima minchiata della rete. In realtà quello che l'ha creata era un furbone, e la sua idea era quella di mettere questa roba dei Pokémon in giro, no? Farli catturare. Ma perché? Perché in questo modo poteva indurre i giocatori a visitare certi luoghi. E perché voleva visitarli? Perché? Perché secondo lui le aziende pagheranno. Cioè la Niantic, che è quella che si inventa questa roba, verrà pagata per apparire, perché i Pokémon appaiono nei luoghi del terreno di gioco virtuale. Cioè, tenuto conto del fatto che questa presenza è in grado di favorire la frequentazione. Cioè, io voglio mandarti, che ne so, la gente nel tuo nuovo pub. Perfetto, ci piazzo il Pokémon Go, perché così la gente viene lì, poi magari visto che è lì, ti compra anche qualcosa. E lì ormai che non vuoi più, hai trovato il Pokémon della tua vita e poi ti siederai pure a bere una birra. È una banalità, è una cavolata, cioè, però è una lettura interessante, secondo me in tutto l'articolo, perché appunto traccia un po' questa evoluzione di questo capitalismo della sorveglianza, così come lo chiama, a partire dalle sue origini, cioè da quello che Google ha intravisto come possibilità, fino allo sviluppo, per arrivare appunto a questa fase nella quale in qualche modo bisogna tirare le fila, cioè funziona questa cosa, sì o no, e se non funziona la devo far funzionare. E quindi si fa il giro dal semplicemente studiare i miei comportamenti alla necessità di influenzare i miei comportamenti. E questa era praticamente tutta la, diciamo, era la fine della riflessione a cui volevo arrivare, che non sono perle di enorme saggezza, però è un'analisi secondo me precisa, nel senso che riesce appunto a ricostruire con citazioni di personaggi influenti nel mondo finanziario dell'internet, no? Di cofondatore di Google, quest'altri del Pokémon Go. Poi nell'articolo sono citate ben altre fonti, vi ho letto solo quelle che mi tornavano più veloci per spiegare e far comprendere la questione. Ecco, e quindi niente, La conclusione in realtà non c'è, nel senso che è appunto un articolo di analisi che si chiude con questa quest'ultima evoluzione, cioè che lui emblematicizza attraverso, cioè rende emblematica attraverso, esemplifica attraverso appunto i Pokémon Go, che sono appunto però non un fenomeno super recente ormai, quindi probabilmente questa tendenza avrà trovato altre fasi, altre vie, altri modi per esplicitarsi, però in qualche modo c'è tutto, cioè in questo articolo, che comunque sono solo due paginette, cioè per un giornale sono già molte, però sono solo due pagine, in qualche modo ha una lettura completa e complessiva di questo pezzo di realtà. E vi faccio ora sentire un altro po' di musica, perché mi sono accorto che ho parlato abbastanza, poi magari vi dico chi è l'autore, scopro un attimo dall'internet di chi si tratta, e dopo la musica qualche altra notiziola. Parliamo ora, visto che abbiamo parlato di grossi magnati del web. Ah no, prima avevo detto che vi dicevo chi era l'articolista, ora ho scoperto. Trattasi di una donna, oddio, è difficilissimo da leggere, Shoshana Zuboff, che è una, ho scoperto, una sociologa che si occupa di storia del lavoro, storia del capitalismo e varie, ha insegnato ad Harvard e all'Università di Chicago, ha scritto diversi libri, magari cercatevi, io ho trovato velocemente su Wikipedia, sembrano tutti titoli abbastanza interessanti, senz'altro l'articolo, quello del Sole 24 Ore, lo era, e tant'è. Procediamo dunque con la prossima notiziola, questa riguarda appunto un magnate della comunicazione, del web, il signor Facebook. Non è l'ennesimo racconto di cosa fa Facebook con i vostri dati, è più una roba che hanno scoperto di recente, nel senso che con un paio di cross-site request forgery, che sono degli attacchi abbastanza semplici da portare alle piattaforme web, in particolare si tratta di indurre un utente loggato su Facebook a cliccare su due link. Attraverso questi click, un tale, un ricercatore che usa l'alias Samuoda, questo signore è qua, ha scoperto che è possibile sostanzialmente impadronirsi o anche cancellare, indurre un utente ad autocancellarsi l'account oppure prenderne possesso. E tant'è. E, è interessante appunto il fatto che comunque sia una tecnica di attacco piuttosto vecchiotta ma sempre valida, quella qua dei, insomma, dei cross-site request forgery, a permettere questo tipo di attività. E quello che volevo sottolineare è che comunque il signore così l'ha fatto il report a Facebook, il quale ha deciso di dargli $25,000 in cambio, e tutto si è chiuso così a tarallucci e vino. E tant'è. È interessante che comunque con questi due click si può indurre, cioè si può bypassare i vari controlli anti cross-site request forgery che Facebook mette in campo, e quindi niente, ve lo volevo dire, cioè è ancora possibile anche nel 2019 impadronirsi senza troppa fatica dei token di autenticazione di un account Facebook. E l'attacco è abbastanza ben spiegato, penso in realtà Facebook, visto che ha anche dato $25,000 al signore, avrà corretto, quindi probabilmente non è più fattibile questa cosa, o magari sì, non lo so, io non ci ho provato, però cercatevi se siete curiosi in rete, i dettagli ci sono, e cioè si capisce abbastanza il tipo di attacco. Ora un altro po' di musica e poi continuiamo su notizie di questo tenore, visto che per settimane sono stato muto. Se siete alla ricerca di account di altre persone, sappiate che su Dream Market hanno messo in vendita dei nuovi pacchi di utenti e password di svariati servizi che Webosi sono anche elencati. Io non ne conosco neanche uno, evidentemente non sono un buon frequentatore del web, non lo sono per niente, e comunque sono tanti. E la cosa interessante è che sono appunto 92 milioni di nuovi account in vendita, ogni tanto ne escono, ne erano già usciti nei mesi scorsi. È possibile che troviate qualche vostro account in questo grosso pacchettone. Quello che si consiglia è cambiate le password, eccetera. È una notizia secondo me appunto molto buffa, perché una tendenza appunto della nostra web economy è che è ritornata dopo un po' di anni, è questa roba di offrire servizi in cloud, offrire una quantità di cose che uno potrebbe pure farsi a casa propria, tipo ad esempio vedo che c'è un servizio che si chiama PizZap, che è un photo editor, ora boh, perché dobbiate usare un fotoeditor online? Io non lo so, però comunque tant'è. Poi, vabbè, tra i vari servizi c'è anche questo OneBeep, che sembra un servizio di pagamento per mobile. C'è anche ClassPass se fate fitness o yoga. Un sacco di account di questi vari siti che proliferano sul web e ci offrono un sacco di servizi. Ecco, diciamo, è un po' la conseguenza appunto di questo affidarsi molto a questo tipo di servizi per le proprie attività, è proprio che. Al di là della profilazione, che comunque ne abbiamo parlato all'inizio, è presente sempre, ed è presente per fini commerciali, cioè semplicemente per capire che cavolo fate col web e cercare di vendervi sempre più roba. È interessante che comunque tutta questa roba qui c'entra molto poco con la vostra riservatezza, cioè insomma se in qualche modo ci tenete, pensate che sia una cosa importante, buttare tutta la propria vita sul web probabilmente non è la scelta giusta, come neanche riempirsi la casa di oggetti smart cosiddetti, insomma boh, io ve lo dico e poi fate voi, decidete di voi stessi, insomma chi sono io per dirvi cosa fare. Ora vi volevo invece intrattenere raccontandovi di un po' di cose che sono uscite e riguardano Linux. In particolare c'è un attacco a una cosa che si chiama Snapd, che è un demone, penso sviluppato da Canonical, sì, insomma da chi, dall'azienda che fa Ubuntu. Questo demone serve, penso, a garantire l'interoperabilità tra sistemi di packaging diversi di Linux, cioè il fatto che ognuno ha il proprio sistema per fare pacchetti, e hanno detto, boh, famone uno generico che fa da wrapper a tutti gli altri, così uno si installa le applicazioni che vuole. Ebbene, è uscito un attacco che si chiama Dirty Sock, che vi dico anche per il nome abbastanza caruccio, per come si presenta molto, diciamo, nella sua proof of concept è molto old style, come piace a me. C'ha tutti, appunto, la grafica fatta in hash art con i trattini e le virgolette e gli apicini. E cosa fa questo attacco? Sfrutta il fatto che questo demone gira con chiaramente i privilegi amministrativi e dà una vulnerabilità che nasce dalla sua API, che comunque gira in localhost, quindi non è attaccabile da remoto, ma se avete un account sulla macchina invece sì, e sfrutta appunto questa vulnerabilità per accordarvi una bella shell di root e boh, è che niente, andatevi a cercare l'attacco perché comunque è sempre interessante leggere di questo tipo di attacchi, tanto più che questo non è neanche particolarmente complesso, cioè non è uno di quelli che lanci poi aspetti un'ora e mezza che succeda, che inquini la memoria in una maniera che non si capisce e poi ti scatta la shell. Questo è più semplice e comprensibile, è un attacco funzionante. E nulla, non è in realtà che ve lo dico perché ci tengo particolarmente a soffiare sul fuoco della sul, diciamo, sul fuoco della sicurezza informatica, e che a me piace molto questa cosa che appunto i programmatori sbaglino, tutti sbagliano e quindi l'umanità in qualche modo sbagli, e da questi grossi errori io deduco che non siamo messi poi così male nella nostra, cioè siamo messi maluccio, ma insomma l'umano errare prevale ancora sull'idra cosiddetta tecnologica, perché comunque i programmatori sbagliano e quindi ci trovano poi le falle nei programmi, anche quelli per Linux, ci tengo a dirlo. E l'altro, infatti, l'altra notizia che vi volevo dare, poi magari la smetto anche di parlare, che forse la puntata è arrivata a mezz'oretta, quindi ho fatto il mio, è di nuovo una falla per un coso abbastanza buffo che si chiama Ranchi ed è un sistema di container tipo Docker che è fatto apposta diciamo, per essere la versione light di Docker, e gira solo su Linux. E perché è interessante? Perché è un progetto molto interessante, molto utile anche se lavorate con i container, perché appunto non è mastodontico come Docker, ma fa più o meno le stesse cose. E se non fosse che cioè, capita, non è che sia grave, però è possibile fuggire da questo container. Quindi, se usate il container per questioni anche di sicurezza, di isolamento degli applicativi, beh, sappiate che è possibile fuggire dal container di RANSI e trovarmi una bella shell di nuovo sulla macchina. E questo è appunto abbastanza interessante, di nuovo, perché nel mondo cloud che hanno pensato per noi, virtualizzato, dove si ritorna a condividere le risorse di calcolo, spesso questi sistemi vengono utilizzati e quindi è buono sapere, insomma, che non è che garantiscono, che cioè sulla carta garantiscono l'isolamento, ma non è detto che poi siano realizzati veramente per riuscire a farlo in tutti i casi possibili del mondo. Uno lo deve sapere, diciamo, insomma, non prendetela male, prendetela appunto come un'altra dimostrazione che l'umano erra, e questo dovrebbe rendervi, secondo me, più sereni e non troppo paranoici. Vi lascio ancora un po' di musichina, poi vedo se trovo qualcos'altro da dirvi, se no la puntata la chiudo qua e fine. Quindi vi do una buonanotte, ma sappiate che magari invece tra 2 minuti ritiro sui microfoni e vi racconto qualcos'altro, ma forse anche no, così, perché mi sento capriccioso. Ancora una notizia ve la do, perché ne ho sempre parlato le altre volte, nel senso che avevo cercato di seguire un pochino gli attacchi alla criptomoneta, e in particolare è uscito un po' di tempo fa un nuovo malware, questa volta progettato appositamente per gli utenti di cose maccose. E quindi attacca principalmente Google Chrome e Safari. E che cosa fa? Beh, tenta di rubare i vostri cookie di autenticazione o cose comunque utili, ma correlate a crypto wallet che hanno qualche tipo di appendice webosa. E questo perché? Perché se riesco a loggarmi su un sito, diciamo, con di criptomoneta, cioè qualcosa che voi usate per gestire le vostre transazioni con il vostro utente, e chiaramente anch'io posso fare le transazioni a vostro nome, e tant'è. E quindi niente, questo nuovo malware, di cui appunto dovranno stare attenti principalmente gli utenti Mac, va di nuovo a impattare su questo mondo abbastanza fuffoso della criptomoneta, che stranamente comunque attrae anche tutto un mondo, anche le, cioè, ma è sempre stato così, però anche un mondo legato più a l'utilizzo creativo e critico dell'internet. Questa roba della blockchain è diventato una sorta di mantra noioso e in qualche modo ripetitivo, no? Sono quelle cose che ogni tanto il mondo della fuffa webosa ha bisogno di un mantra tecnico, no? Un termine da riutilizzare in continuazione, che sembra la soluzione a tutti i problemi. C'hai un problema, non lo so, con il lavandino che si è intasato, e fai una blockchain e si risolve. E non è così in realtà. E quindi niente, è interessante questa roba, che comunque queste criptomonete aumentino, cioè spostino l'attenzione di chi ti rubava il portafoglio sull'autobus, ma spostino l'attenzione su il web, dove tutto questo, cioè sull'internet, dove tutto questo si svolge. Penso che chi rubava i portafogli sull'autobus continuerà a farlo comunque, in più però tenderà a cercare di rubare anche le cose necessarie a gestire la vostra criptomoneta sul web. E tant'è, questo per me era di nuovo rasserenante, non perché sia un fan di rubare i portafogli sull'autobus, è anche un luogo un po' brutto secondo me dove rubare, perché alla fine si pesca tra disgraziati, in questo caso si pesca meno tra di disgraziati, forse, non lo so, e comunque funziona così. Cioè, dove ci stanno i soldi c'è qualcuno che non ce l'ha, che tende a prenderseli. E oppure uno che magari è antipatico e ne vuole di più, non lo so, dipende, non tutti sono Robin Hood, e tant'è. E comunque, con quest'ultima notiziola che vi ho dato più per dovere appunto di cronaca, visto che queste cose le ho seguite abbastanza in maniera costante nella trasmissione, chiudo questa volta davvero la puntata, almeno per oggi, ecco, e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove forse avrò anche una piccola novità che avevo già iniziato a preparare per la settimana scorsa, ma poi mi sono fermato. Vorrei infatti aggiungere anche un blog alla trasmissione, dove pubblico all'incirca una volta alla settimana un articoletto su dei temi che non è detto che siano quelli della trasmissione, ma è un modo appunto per approfondire maggiormente le cose di cui vi narro. Qualche volta mi viene più facile scrivere che non parlarne. Avevo iniziato a lavorare, avevo scritto un primo piccolo articolo, ne preparo probabilmente un altro, e poi la prossima settimana, prometto, vi do anche l'indirizzo, che dovrebbe essere appunto un appendice a questa trasmissione, nell'ottica appunto di farne uno spazio dove riesco ad approfondire le tematiche. Non è infatti secondo me tanto interessante nel mondo della comunicazione moderna la quantità di informazioni, l'essere sempre sul pezzo, o almeno è una parte della cosa, ma non è quella che io penso di poter fare. È più interessante forse abituarsi a riflettere a lungo sulle cose, a sviscerarle, a approfondirle nell'ottica appunto di comprendere, e poi provare in qualche modo a quantomeno a avere un pensiero più critico e sano rispetto a ciò che si trova genericamente in giro, cioè non, insomma, nel mio modello di comunicazione non è scorrere velocemente con il dito su tutte le notizie che trovate su Facebook, anche se filtrate e mirate, o che trovate in giro leggendo solo più le prime righe di tutto quello che accade, ma è appunto quello di cercare di entrare in profondità, nel nostro caso anche tecnica, sulle questioni, mantenendo però sempre una sorta di filo conduttore, cioè critico rispetto a tutto ciò che ci circonda nell'universo tecnico e non. Poi, basta, è tardi, tendo a intortarmi a questo punto, quindi vi saluto, vi lascio ancora un attimino di musichina presa completamente ormai a caso, sarà sicuramente qualcosa di funky, ma assolutamente non so cosa vi farò ascoltare.